Quando Pereira ritrovò la sua camera e il suo letto, ricapitolò. Il francese non aveva fatto menzione di alcuna somiglianza tra il sosia e lui, neanche la minima allusione. E si trattava dell'importatore cui, per interposto sosia, Pereira aveva concesso il monopolio del pellame rettiliano, anche questa espressione era dell'industriale, in cambio di una commissione e di una percentuale considerevoli. Quell'uomo non poteva aver dimenticato il volto di un interlocutore che, per sua stessa ammissione, l'aveva tanto colpito. Allora? Discrezione? No, troppo avido di raccontare le sue esperienze costruttive. Se avesse riconosciuto Pereira, il commerciante l'avrebbe detto. Oh, questa poi! Un dissimulatore. Una spia al soldo di chissà chi. Perché mai una spia si farebbe notare non riconoscendo un uomo di cui dichiarava davanti a lui di aver incontrato il doppio? Gli occhi di Pereira rimanevano aperti sulla notte. Lui che fuggiva i fisionomisti, adesso si preoccupava di non essere riconosciuto. Ebbe una risata muta e decise di invitarsi l'indomani a pranzo al tavolo dell'industriale per togliersi il dubbio. L'indomani, a mezzogiorno, gli habitué dell'Hotel Victoria celebravano l'anniversario di un tragico evento accaduto qualche anno prima in quella sala da pranzo, allo stesso tavolo cui avevano preso posto Pereira e l'industriale francese. «Morto? Mio Dio, e di cosa?» domandò una voce femminile. «Un proiettile nel ginocchio, uno nel femore, uno nel rene, uno nella milza, uno nel pancreas e un sesto, le signore mi perdonino, nel basso ventre», rispose Hofweber, il maître d'hôtel che aveva immobilizzato l'assassina. «L'assassina!» esclamò un'altra voce. «Sì, una giovane donna dall'aspetto mite che non aveva opposto alcuna resistenza quando Hofweber l'aveva afferrata sotto la veranda dell'hotel con la Browning che le penzolava in fondo all'indice e lo sguardo che vagava sulle nevi della Jungfrau. Non mi faccia del male, lo vede che non oppongo resistenza né intendo fuggire». La Browning era vuota. Il settimo proiettile si era conficcato nel piano del tavolo. «Delitto passionale?» domandò qualcuno. «Attentato politico», rispose l'industriale francese. Pereira, che pure aveva altri pensieri per la testa, si lasciò catturare un istante dalla storia della giovane attivista russa Tatiana Leontiev, venuta qui per far fuori uno sfortunato rentier che lei credeva essere Durnovo, il ministro della polizia dello zar Nicola II. «Sa la cosa più incredibile? Non aveva mai visto il ministro Durnovo, mai! Nemmeno una volta, nemmeno in fotografia!» Il bleso posava su Pereira uno sguardo sbarrato da uno stupore retrospettivo. «Conosceva solo la sua caricatura, fui giornali!» E l'industriale francese esclamava con la più ingenua sincerità: «Lo riconoscerebbe lei un uomo di cui avesse visto solo la caricatura?»